ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Sei riuscito a dire che i tamponi contano per quello che contano. Ti è scappata un po' di verità. Bravo. Il campionato non si può fermare, c'è un indotto sotto enorme di gente che lavora, famiglie che ci campano. Si rinviano le partite come si fa quando c'è maltempo. De Luca ha fatto il classico penultimatum. Il penultimatum di Vincenzo De Luca, eh? Il penultimatum, che forse qualcuno non l'ha sentito prima. Ce l'abbiamo, lo recuperiamo, Peter Bescapè, il penultimatum di De Luca ieri a Porta a Porta. Cioè, via, via. Perché noi possiamo fare due scelte, o andare verso il lockdown, cioè chiudere tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti, oppure decidere di convivere con il Covid, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole. Però lei ha già detto che fino al 7 ottobre non si possono fare, intanto gli alcolici da asporto non più dopo le 22, poi ha deciso anche che nelle feste non ci possono stare più di 20 persone, insomma, quindi c'è stata già una discreta stretta. Insomma. Questa è la penultima decisione prima di chiudere tutto. Il penultimatum di De Luca. Oh, sui tamponi devo una risposta all'ascoltatore. Valgono per quel che valgono, vuol dire questo, non vuol dire che siano uno strumento inutile, sono uno strumento utile, però come è già stato ampiamente detto, se il virus, la presenza del virus si manifesta più tardi rispetto al momento del contatto fisico con un contagiato, farlo il giorno dopo è inutile. Vedremo cosa emergerà dai tamponi del Napoli che verranno fatti due giorni prima della partita, ossia venerdì, ma vedremo come si evolveranno le cose in queste ore. Molto molto si parla di calcio in queste, anche sui giornali di oggi. Questa è la rassegna stampa, è la seconda parte di 24 mattino, ovviamente mercoledì 30 settembre, sono le 7:22 minuti. Alcuni giornali aprono sull'assemblea di Confindustria di ieri, lo fa il Sole 24 Ore con il titolo su Bonomi, coraggio e visione in un grande patto per l'Italia. Lo fa il Corriere della Sera che titola gli industriali incalzano Conte. Lo fa la Stampa che titola Conte Bonomi, tregua per ripartire, a testimonianza di una lettura che danno un po' tutti, quella di tensioni che si allentano tra l'esecutivo e Confindustria. La Repubblica ha un'apertura con notizie che riguardano ancora una volta il cardinale Becciu. Ecco come rubavano i soldi al Papa. Nelle carte l'atto di accusa della Santa Sede sulle frodi finanziarie. Hanno persino prelevato 20 milioni di sterline dal conto riservato del pontefice. E a centropagina l'addio alle aliquote per il fisco. Anche su questo ci arriveremo. Molto sul calcio, come si diceva, per esempio, la Gazzetta dello Sport che titola la A va avanti, ovviamente. Il Messaggero che ci dice virus, serve più isolamento. Si parla del Genoa Calcio, virologi divisi sul flop tamponi. Crisanti dice il problema è rispettare le quarantene, ve l'abbiamo fatto sentire prima, Sul Covid apre il Fatto Quotidiano, per esempio. Covid, ospedali già pieni in tre regioni, Roma, Napoli e Genova. Avvenire, meglio più tamponi e meno allarmismo. Libero si lancia in una... vi leggo il titolo, C'è uno spray anti-Covid, dice Libero. Si chiama Endovir Stop, è basato su una molecola naturale e però l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'ha bocciato due volte. Però appunto questa è l'apertura di Libero. La verità, un voto salva Conte sul virus, può lavorare nell'ombra, la maggioranza respinge la mozione del centrodestra che chiede di rendere pubblici gli atti del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico. Recovery d'urgenza, il titolo del manifesto, su ancora l'Assemblea di Confindustria, e sul Recovery Fund. Arrivano i test rapidi nelle scuole, è il titolo del quotidiano nazionale. Come sempre, iniziamo da qualcosa di diverso, anche se è qualcosa che alla fin fine, care ascoltatrici e cari ascoltatori, trovate un po' su tutti i giornali, però fatemelo prendere da un altro lato. La storia è quella di Antonio De Marco, 21 anni, accusato di aver ucciso a Lecce Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. È una storia della quale avete sentito in GR24, della quale leggete un po' dappertutto, sia su internet che sui social che sui giornali. E per riassumerla col Corriere della Sera, per chi fosse stato un po' fuori da queste questioni nelle ultime ore, Antonio De Marco, studente di scienze infermieristiche, ha confessato l'assassinio di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta nella loro casa di Lecce. Li ho uccisi perché erano troppo felici. Ho fatto una cavolata, so di aver sbagliato, avrebbe detto durante l'interrogatorio ai magistrati. Sui giornali trovate tutte le cronache, il racconto di questa premeditazione, l'idea addirittura che avrebbe avuto questo 21enne di torturarli prima di togliere loro la vita, ma soprattutto in una sorta di tic giornalistico, permettetemi di chiamarlo così, trovate sui giornali una quantità di interpretazioni ai limiti dello stucchevole, francamente. Forse, ecco, questa cosa a un certo punto dovremmo togliercela. E allora, il quotidiano nazionale intervista Roberta Bruzzone, criminologa. Si è sentito umiliato, abbandonato. La decisione di De Santis di non rinnovargli l'affitto per restare da solo con la compagna in quella casa ha scatenato in lui una frustrazione nascosta divenuta ferita insanabile. Francesco Bruno, criminologo, sul Messaggero. Antonio era un maniaco del controllo, si sentiva escluso dalla loro relazione. L'invidia è un sentimento che tutti proviamo, non può essere stato solo quello. Credo che ci fosse piuttosto una passione, un innamoramento per uno dei due ragazzi. Vittorino Andreoli, psichiatra, sulla Stampa. Non è un malato, ha colpito per invidia, nell'epoca dei like il riconoscimento è tutto. Lo psichiatra Claudio Mencacci, pagina 3 del Corriere della Sera. Il veleno dell'invidia si amplifica via social. La Stampa scomoda anche Michela Marzano, che scomoda a sua volta Alda Merini. La miglior vendetta, la felicità. Non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Inizia con una citazione il suo pezzo, senza forse immaginare che alcuni anni dopo un ragazzo di 21 anni, Antonio Giovanni De Marco, avrebbe utilizzato l'argomento della felicità per spiegare il proprio gesto omicida. Così sui giornali un proliferare di psicologi, psichiatri e criminologi, tutti pronti a interpretare questo gesto che ha, diciamocelo francamente, dell'insondabile alla fin fine. Allora, so che qua in questa parte della rassegna stampa, dall'altro giorno, da quando abbiamo parlato della questione del carcere, dell'affettività in carcere, è anche lo spazio, se volete, delle cose impopolari ogni tanto. E allora, visto che siamo un po' su come i quotidiani trattano le notizie, troviamo solamente di taglio basso a pagina 11 del giornale e in qualche breve sparsa in giro sui quotidiani un uomo che fino a qualche tempo fa era addirittura in apertura sui giornali. E chi è? L'uomo nero, tra virgolette, di Forza Italia in Campania. Si tratta di Nicola Cosentino, ex sottosegretario all'economia. E perché è così in piccolo sui giornali ed era in apertura prima? Perché prima l'avevano arrestato per collusione con la camorra e ieri è stato assolto in secondo grado. È finito l'inferno dopo aver trascorso 3 anni in carcere, ci racconta il giornale. La Corte di Appello di Napoli ha cancellato all'ex sottosegretario all'economia la condanna a 5 anni per collusioni con la camorra. Assolto in secondo grado. I giudici della Corte d'Appello di Napoli hanno cancellato la condanna all'ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi, 9 anni dopo l'avvio dell'inchiesta della DDA su camorra e colletti bianchi, che aveva al centro la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe, presunti brogli elettorali per le comunali. L'inchiesta del 2011, 9 anni. Aveva portato all'arresto di oltre 50 persone, alla condanna in primo grado di una ventina, tra cui Cosentino. Sono stati tutti assolti in secondo grado, tutti assolti, e per questo Nicola Cosentino si è fatto 3 anni di carcere. Oh, non è finita, è stato assolto anche in un altro processo, adesso ne è in piedi un altro, sempre per ipotetiche collusioni con la camorra, e però la notizia di questa assoluzione è un po' finita tra le pieghe dei quotidiani. Direi che ci prendiamo una pausa. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Bisogna polemizzare sempre su tutto. De Luca ha parlato di penultima decisione, non di avvertimento. L'ultima decisione, infatti, sarà la chiusura totale. Ciao, buongiorno. Mi sono letto tutto il super bonus, ecco bonus, sisma bonus, dove si possono detrarre un sacco di spese. Ma è mai possibile che non ci sia nulla, ma dico nulla, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche, come non c'è nulla per lo smaltimento dell'Eternit? Mi pare un buon suggerimento per il governo. Oh, e su De Luca non è che si polemizza, si scherzava. Quando uno dice questa è la penultima cosa, il gioco sul penultimatum viene fuori, punto. Non si offenderà De Luca e spero che non si offenda chi lo ama. Sul dibattito di questa notte, ovviamente sui giornali non troverete nulla, avete sentito un po' in GR24, ne abbiamo parlato prima alle 6:30, però se volete divertirvi un po', potete andare sul sito dell'inchiesta, oltre agli aggiornamenti che trovate sul sito del Sole 24 Ore, il racconto del dibattito che trovate sul sito del Sole 24 Ore, volete farvi anche un po' divertirvi, c'è il pezzo di Maria Laura Rodotà sull'inchiesta, che sta firmando una rubrica quotidiana proprio sulle elezioni americane, e titolo è Shit Show Trump Biden, il peggior dibattito nella storia dei dibattiti, e inizia così: 2 anziani, uno pallido, uno apoplettico, hanno dibattuto stanotte a Cleveland. Uno, il presidente Trump, urlava e interrompeva come un deputato di Forza Italia in TV ai tempi di Rubi, nipote di Mubarak. L'altro, l'ex vicepresidente Joe Biden, in certi momenti sembrava il candidato del PD che dibatte concettola qualunque. Al netto dei paragoni patriottici, il primo dibattito tra Trump e Biden è stato un disastro. Il peggior dibattito presidenziale della mia vita, secondo George Stephanopoulos, ex clintoniano della ABC. Uno shit show. Uno spettacolo di merda, chiedo scusa. Ha detto scusandosi, ma neanche tanto, Dana Bash della CNN. Così, shit show, che la maggioranza dei commentatori retribuiti e da social ieri sera decideva di non aver bisogno di altri 2 dibattiti. Proprio no. Questo per darvi la misura di cosa è successo questa notte, quantomeno un piccolo segnale. Siamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, che prende le mosse soprattutto da quello che è stato il momento politico economico più importante della giornata, ossia l'assemblea di Confindustria. Assemblea di Confindustria dove, dalla quale unanimemente, secondo un po' tutti i commentatori, esce un riavvicinamento tra governo e Confindustria dopo le tensioni che ci sono state nei giorni scorsi. La cronaca ve la può dare ottimamente Nicoletta Picchio sul Sole 24 Ore, che inizia così. Cita Henry Ford: gli aerei decollano ogni giorno contro vento, non con il vento in coda, per raggiungere subito dopo. Questo è lo spirito che serve, scelte per l'Italia del futuro anche contro vento. E quindi quel coraggio del futuro che Carlo Bonomi ha scelto come titolo della sua prima assemblea pubblica, posticipata rispetto a maggio per il Covid. Coraggio unito alla visione, e cioè quale dovrà essere l'Italia dei prossimi anni, un paese che deve riprendere a crescere, non solo recuperando il crollo del PIL di quest'anno, stimato in una forbice tra meno 9 e meno 11, ma anche, ha sottolineato Bonomi, quei tre punti che ancora a fine 2019 ci mancavano per recuperare il periodo pre-crisi del 2008. E qua ci sono alcuni elementi della relazione di Bonomi: se si fallisce sull'utilizzo del Recovery Fund, non va a casa solo lei, ha detto rivolgendosi a Conte, andiamo a casa tutti, il danno per il paese sarebbe immenso. E poi c'è la proposta di questo patto per l'Italia che metta sostanzialmente insieme tutti per creare una visione alta e lungimirante. A commento di tutto questo c'è l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Il titolo è "Il tempo di scelte non più rinviabili". Scrive Tamburini: troppo spesso incalzati dalla quotidianità dimentichiamo di alzare lo sguardo per dare significato alle scelte della vita di ogni giorno. Per questo la decisione di Bonomi di intitolare l'assemblea annuale "Il coraggio del futuro" è di rilevanza. Occorre avere capacità di visione, occorre saper guardare lontano, virtù non molto diffusa in un paese abituato più al giorno per giorno che alla programmazione. Una visione che, come ha sottolineato il presidente di Confindustria, manca da troppi anni. È tempo, il messaggio per evitare il disastro è stato espresso, scrive Tamburini con assoluta chiarezza, è tempo di azione comune, oppure non sarà un'azione efficace. Editoriale che poi prosegue. Forse è utile anche segnalare il commento di Dario Di Vico invece sul Corriere della Sera in merito appunto all'assemblea di Confindustria. Il titolo, la testatina è sui rapporti con l'esecutivo, il titolo è "Gli industriali, il patto e la visione che non c'è", e il tema è esattamente quello della visione. Cosa chiede Bonomi al governo? Esplicitare una visione del paese del rilancio post-Covid e stringere con le parti sociali un patto per l'Italia. Sulla prima, con tutta la buona volontà di questo mondo, il capo degli industriali non poteva aspettarsi miracoli. Per lo stesso DNA che gli ha permesso di guidare un governo giallo-verde e successivamente un esecutivo giallo-rosso, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è portato a privilegiare quasi in automatico la politique d'abord, ad adottare scelte immediate di facile verifica. La vista lunga non gli appartiene innanzitutto come forma mentis, e comunque il premier è pur sempre alla testa di una coalizione di tre partiti con culture dell'industria, imprese e del lavoro, per fermarci ai temi di ieri, assai differenti tra loro e non facilmente componibili. Dunque è difficile assumere lo stesso atteggiamento della Francia, invocata ieri da Bonomi con lo schema di France Relance, il piano lanciato da Emmanuel Macron. Scrive ancora Di Vico, senza concedere quasi niente nel merito, senza arretrare in nessun dossier, Bonomi ha però scelto un posizionamento orientato alla saggezza e alla prudenza, fino a rintracciare nella successiva conferenza stampa, con molta generosità nelle parole del ministro Patuanelli e del premier Conte, addirittura un mutamento di linea del governo. A segnalare appunto che questo disgelo evidentemente c'è, ne scrive anche Di Vico sul Corriere della Sera. Cosa ancora dalla giornata di oggi? Poi altri commenti li trovate ovviamente su vari quotidiani più o meno sulla stessa linea. Cosa ancora vi dicevo? Beh, sicuramente direi la questione del calcio, che già ieri era sulle prime pagine, oggi prende ancora più corpo perché inizia a ipotizzarsi che il campionato si possa fermare. Ah, tra l'altro ditemi che ne pensate voi, se volete, al 349 238 6666 con i vostri WhatsApp audio, se debba fermarci oppure no in questa condizione, con 11 giocatori del Genoa positivi, quelli del Napoli che non si sa ancora, perché dovranno verificare con il tampone prima della partita. Secondo il Corriere della Sera è un virus, il calcio alla prova, no? Campionato a rischio, ma Federazione e Lega intendono rispettare il calendario e non rinviare Genoa-Torino e Juventus-Napoli. C'è un commento in prima pagina di Massimo Gramellini: ricchi, famosi, siate anche seri. Con ogni probabilità, scrive Gramellini, il calciatore che ha contagiato mezza squadra del Genoa, mettendo a repentaglio il fine settimana di milioni di appassionati, aveva contratto il virus durante la giornata di riposo. Era già accaduto ad altri suoi colleghi, ormai talmente numerosi che da Perin a Ibrahimovic si potrebbe schierare un'intera formazione con tanto di panchina lunga e allenatore. Ho letto commenti del tipo: ovviamente non si può impedire a un giocatore di avere la vita sociale che desidera. Ovviamente. E se invece stesse proprio lì il problema, si chiede Gramellini. Insomma, il punto è, non è che questi, se vogliono far andare avanti il campionato e visti i guadagni che hanno, facessero delle scelte responsabili e invece nei loro giorni di riposo se ne stessero un po' ritirati e quasi come se fossero in quarantena. Il titolo dell'editoriale di Gramellini è chiaro: ricchi, famosi, potete anche essere seri, scrive appunto Gramellini. A questo tema si dedica anche, vediamo se riesco a ripescarvelo, Il Giornale, perché ci fa l'apertura, tamponi sotto accusa, il calcio è nel pallone, e c'è il pezzo di prima pagina di Tony Damascelli che dice questo: esaurito l'effetto e l'anestetico, siamo tornati a ballare in piazza, affollare spiagge e giocare a pallone. Il lockdown ci aveva bonificato, la sanificazione non aveva riguardato locali e mobili, ma le nostre teste e i nostri corpi. Andavamo di gele, di guanti, di mascherine, di distanziamento come in un film di fantascienza. Roba vecchia. Il virus non è morto e vive insieme a noi, però ci sono i partigiani che combattono contro la pandemia, non sono i virologi nemmeno gli scienziati. Trattasi degli abitanti del mondo del calcio, un pianeta che rientra in un universo esclusivo di privilegi e superficialità, ignoranza ed egoismo. La vicenda dei contagiati del Genoa ha spiazzato tutti, ma ha creato soprattutto fastidio. Invece di preoccuparsi della salute degli atleti, si è controllato il calendario delle prossime partite. Quale sarà da rinviare? Il campionato è falsato? I calciatori del Napoli che hanno affrontato quelli del Genoa sono anche loro infetti? Con la sensibilità che contraddistingue i lupi mannari, chi si è preoccupato del gruppo di arbitri e assistenti di questa partita? Nessuno. Appartengono a una razza inferiore, non fanno patrimonio, non stimolano attenzione, se non per un rigore non fischiato. Così Tony Damascelli sul Giornale. Come vedete, il tema del calcio sta montando e vedremo cosa succederà. Intanto il traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Maurizio da Varese mi scrive: ma come, non si può impedire a un calciatore di avere una vita, la vita sociale che vuole, mentre agli altri sì? Sì, in effetti, se pensate che De Luca ha detto si possono fare feste, l'ordinanza lo recita, di massimo 20 persone, a noi la vita sociale è, per certi versi, in certi luoghi, ancora preclusa, e ai calciatori invece no. E invece sì, così dovrebbe essere, così scrive appunto Massimo Gramellini. A proposito di Campania, l'apertura del Fatto Quotidiano è dedicata e Covid, l'apertura del Fatto Quotidiano è dedicata esattamente al Covid. Si parla di ospedali pieni in un pezzo di Vincenzo Bisbiglia che racconta quello che sta succedendo per esempio a Roma o a Napoli. Vincenzo Iorillo e Natascia Ronchetti ci portano proprio in Campania e Liguria, reparti con 10 giorni di autonomia, raccontano. Perché? Perché dei casi registrati ieri, 286 sono in Campania, 219 nel Lazio, 82 in Sardegna, 89 in Liguria. In crescita i ricoveri, 71 in più. In Campania il virus accelera e costringe ad attrezzarsi alla fase C, terzo e ultimo stadio di un piano approvato a giugno, quando qui si viaggiava verso i contagi zero. Il piano prevedeva l'allerta all'occupazione del 90% dei posti previsti in ogni singola fase. E ormai ci siamo. I 553 posti dei reparti Covid nella fase B dovrebbero diventare circa 1000 entro metà ottobre. Oggi riunione in unità di crisi per predisporre il percorso. I numeri inducono preoccupazione, conferma il manager dell'ospedale Cotugno di Napoli, Maurizio Di Mauro, che dice una frase che è tutto men che tranquillizzante, devo dire la verità, anche se lo vuole essere. A costo di mettere i letti a castello, daremo assistenza a tutti. Questa la frase di Di Mauro. Cosa ancora dalla giornata di oggi, quindi teniamo l'occhio anche sui numeri, su quello che sta succedendo in una serie di luoghi a partire dalla Campania. Dalla giornata di oggi, dalla rassegna di oggi, direi che sicuramente l'apertura del quotidiano La Repubblica che è dedicata a Ecco come rubavano i soldi al Papa, un lungo pezzo di Floriana Bulfon con un documento che si basa su un documento di 59 pagine che solleva il sipario sul verminaio di corruzione che ha travolto il Vaticano. È la rogatoria presentata dalla Procura Pontificia, che parte dal grande scandalo dell'immobile di Londra, attorno al quale si muove una folla di monsignori, broker, avvocati di affari e persino procuratori di calcio. Ne emerge che è stato svuotato anche il conto del Papa, cioè quello dedicato appunto esattamente alle attività del pontefice, e ci sono tutta una serie di elementi anche interessanti e che incrociano personaggi della nostra vita pubblica che non a caso vengono citati qua dentro, Nell'affare vengono coinvolte, racconta appunto Floriana Bulfon, tante società di cui non è possibile conoscere i finanziatori. Dai file presenti nel PC di Fabrizio Tirabassi, dipendente della Segreteria di Stato, si apprende che Raffaele Mincione, un nome che torna, sarebbe amico del capo di Ceni. Mincione emerge dal dossier come il regista delle manovre. Il rider venuto da Pomezia, attivo in partite che vanno dallo scontro per la banca genovese Carige a quella per il controllo di Retelit, nella quale era assistito dall'avvocato Giuseppe Conte fino a giorni prima dell'insediamento a Palazzo Chigi. Mincione che è onnipresente. Intorno a lui c'è un vortice di sigle che servono solo a inghiottire denaro, scatenando gli appetiti di gruppi di potere. Un pezzo da leggere e un'inchiesta, quella sulle finanze vaticane, che sicuramente andrà avanti. Da segnalarvi che cosa ho ancora. Il Messaggero ci fa sapere a pagina 17 che le nomine di Alitalia sono bloccate. Se vi aspettavate che si risolvesse rapidamente il dossier Alitalia, non si risolverà rapidamente, perché le nomine sono bloccate a quanto pare dalle divisioni all'interno del Movimento 5 Stelle. Umberto Mancini ci racconta che c'è il braccio di ferro interno sui candidati al Consiglio d'amministrazione che sta frenando il varo del decreto sulla nascita della nuova compagnia. Il PD è irritato, i sindacati sono in allarme, la compagnia, dicono, sta perdendo tempo prezioso. Comunque, sappiate che ancora non ne siamo fuori. Così come Roma non è fuori dalla questione rifiuti e dai difficili rapporti con i sindacati dell'azienda che se ne occupa. Come lo stesso Messaggero ci racconta in Cronaca di Roma con Laura Bogliolo, dove si apprende che in un quartiere alla periferia est di Roma, a Colli Aniene, ricordate che la giunta aveva lanciato la raccolta porta a porta, la nuova frontiera romana era la raccolta porta a porta, mai più i cassonetti. Ebbene, dietro front a Colli Aniene. La questione coinvolge 17.000 persone e anche commercianti, però guardate, una spia di come funzionano le cose e come è difficile farle funzionare nella capitale. Torna la raccolta in strada per 5.000 famiglie, tornano i cassonetti, e perché? perché la lettera è motivata, la lettera che lo illustra, è motivata da ragioni imprescindibili, si legge. Prima fra tutte la non conformità agli standard di sicurezza nella movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori AMA, rilevata e denunciata dalla competente ASL con intimazione a provvedere. Insomma, salire e scendere gradini, trascinare fuori i bidoncini è troppo faticoso e i dipendenti dell'AMA questa cosa non la vogliono fare. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli per commentare tutti i fatti del giorno e poi avremo ospite la ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone, parleremo di tante cose a partire ovviamente da questa pubblica amministrazione che tanti problemi crea, di concorsi e non solo di quello. GR. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo. Perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.